scusarsi perché è stato un errore. Io son qua e ti sento, sento ancora che ci sei, ma è troppo stanca quest'illusione di ciò che ho perso e che vorrei. La mia ferita che cos'è? Aiutami a guarire, proprio tu che sei la luce, ma anche l'ombra del dolore dentro me. E io verrò un giorno là, ci daremo la mano e poi mai più ti lascerò. Voleremo davvero e resta qua vicino a me, non lasciarmi mai sola, ho paura che senza te non vivrò mai davvero, mai. Com'è successo che proprio io abbia spento il tuo sorriso nel silenzio di una colpa che non riesco a perdonare? L'immenso vuoto che hai lasciato il mio corpo non può colmare, perché l'eterno è così grande che nulla può contenere dentro me. Ma io verrò un giorno là, ci daremo la mano e poi mai più ti perderò, ci saremo davvero e resta qua vicino a me, non lasciarmi mai sola, ho paura che senza te